Benvenuti e benvenute a tutti e a tutte le ascoltatrici. Siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 e questo è Tracce di Cinema. Oggi, come ogni giovedì, parliamo di musica e di film e, vista la giornata, vi volevamo intrattenere con la colonna sonora di Singing in the Rain. No, sto scherzando. Oggi parliamo di un altro film, non vi preoccupate, parliamo di un piccolo film tratto da un libro di grande successo dal titolo Alta Fedeltà, un film che parla di un uomo che ha diversi problemi con le sue compagne e ex compagne. Il protagonista è John Cusack, che abbiamo visto in essere John Malkovich in Falso Tracciato e in altri film, Jack Black, che abbiamo visto in Nemico Pubblico e in altre pellicole, e il regista è Arthur Frears, che oltre a aver curato la regia di questa commedia è stato, diciamo, anche un regista di colossal come Le relazioni pericolose e Eroe per caso e altri film. La colonna sonora è molto variegata e non è molto omogenea e passa da una parte all'altra della storia del rock. Si parlerà dei Kinks, ma anche degli Stereolab, quindi insomma passiamo dagli anni 60 agli 80 con grande facilità. La colonna sonora è diversa dalle musiche citate nel libro, la colonna sonora del film, volevo far notare. Nel libro sono citate molte musiche degli anni 60 e 70, invece nel film, oltre a musiche degli anni 60 e 70, ce ne stanno molte degli anni 80, magari più fruibili. Nella colonna sonora del film troviamo Elton John, c'è Bruce Springsteen, Lou Reed, Aretha Franklin, i Queen, Elvis Costello, Bob Dylan, Stevie Wonder. È da ricordare che Bruce Springsteen fa anche una piccola parte nel film. Sono proprietario di questo negozio, il Championship Vinyl. È in un quartiere, in una strada che definire di scarso passaggio è eufemistico. Tiro avanti grazie agli sforzi economici degli appassionati, soprattutto giovani, che passano il tempo a cercare singoli degli Smiths, quelli originali, non le versioni rifatte ovviamente, e Frank Zappa, qualunque cosa. Questa era You're Gonna Miss Me dei 13th Floor Elevators. I 13th Floor Elevators sono stati un gruppo musicale rock formatosi ad Austin, Texas, nel 65. Furono nella seconda metà degli anni 60 una delle prime più significative band di musica psichedelica. Aggiungo che questa è l'unica traccia che a me è piaciuta in particolar modo di questo film, e io ne conoscevo anche la versione, la cover che ne fecero i Flintstones, che con l'occasione ricordo, visto che ci sono delle coincidenze temporali, suoneranno venerdì 3 aprile al Forte Prenestino qui a Roma, al centro sociale Forte Prenestino qui a Roma, per festeggiare i loro 35 anni di attività. Tieni. Io invece volevo dire che la psichedelia di questo gruppo ha delle radici molto profonde, già dallo stesso nome, insomma, si capisce che va ricondotto ai 13 scalini della piramide della conoscenza, a cui vertice si pone l'occhio che tutto vede. Il leader, Rocky Erickson, sarà anche una delle prime vittime rock di abusi lisergici, pagati con una follia latente che si manifesterà a tratti in maniera eclatante, come quando nel 69 verrà internato nell'ospedale psichiatrico di Austin dopo aver pubblicamente proclamato di essere un marziano. Ai ai ai. E tra le sue principali fonti di ispirazione il filosofo Alfred Korzybski, nella sua opera principale Science and Sanity sostiene che gli esseri umani sono limitati nelle loro conoscenze dalla configurazione del loro sistema nervoso e dalla struttura del loro linguaggio, e l'unico modo per modificare il modo di approcciare il mondo è facendo uso di droghe, che sono la tecnica principe per il conseguimento dell'obiettivo della conoscenza subliminale di tutto. Oh no, sai una cosa? Non te lo posso vendere adesso, prova la settimana prossima. Hai detto così anche l'altra volta. Ah sì? Allora vuol dire che... Ottima interpretazione. Io non ce l'ho quel disco, lo compro per 40. Rob, venduto. Scusa, perché lo vendi a me e non lo vendi a lui? Perché tu non sei un fissato, Luis. Certo che siete snob. No, non lo siamo. Sì, invece, siete degli assolutisti. Vi sentite come scolaretti incompresi e disprezzate quelli che ne sanno meno di voi. No. Vale a dire chiunque. Beh, sì. Triste, sì. È una cosa triste, davvero. Di nuovo i Kinks a Tracce di Cinema. Questa canzone si chiama Everybody's Gonna Be Happy, brano composto da Ray Davies nel 65, incluso nell'album Kinda Kinks. I Queens of the Stone Age ne hanno fatta una cover che noi non conosciamo, però tu l'hai sentita? Non l'ho sentita, no. Questa era bella. Sicuramente, no? Ve la mettiamo alla prossima puntata. Il protagonista del film è un po' sfigato, questo è abbastanza chiaro, e lui cerca le sue ex. A un certo punto trova la mamma di una sua ex. Pronto? Buonasera, sono Rob Gordon, un vecchio amico di Allison. Ecco, io... Scusi, come ha detto che si chiama? Rob Gordon. Vede, io sono stato il suo primo ragazzo, diciamo così, alle medie. Se lei gentilmente potesse farmi parlare con Allison o darmi il suo numero, io avrei... Mi dispiace contraddirla, Rob, ma Allison ha sposato il suo primo ragazzo, Kevin Bannister, che è stato il suo primo e ultimo fidanzato. Sta scherzando, non è possibile. No, no, dico sul serio, è sposata con Kevin Bannister. Adesso vive in Australia. Noi stavamo insieme in terza media. Come dice, prego. Veramente... Sono stato io il suo primo ragazzo, signora. L'ho conosciuta molto prima di Kevin. Per l'esattezza, il numero uno sono io. Non capisco cosa intende quando dice per l'esattezza. Sono il numero uno, punto. Non ci piove. D'accordo, come vuole, mi sarò sbagliata io. Ora la devo salutare, Bob. Tante belle cose. Cold-blooded old time. Cold-blooded old times. Cold-blooded old times. The type of memories that turn your bones to glass. Turn your bones to glass. Mother came rushing in. We said we didn't see a thing. We said we didn't see a thing. And father left at eight, nearly splintering the gate. Cold-blooded old times. Cold-blooded old times. Cold-blooded old times. Cold-blooded old times. Type of memories that turn your bones to glass. Turn your bones to glass. And though you were just a little squirrel, you understood every word. And in this way, they gave you clarity, a cold-blooded clarity. Cold-blooded old times. Cold-blooded old times. Cold-blooded old times. Now how can I stand and laugh with the man who redefined your body? How can I stand and laugh with the man who redefined your body? And those cold-blooded old times. Cold-blooded old times. Cold-blooded old E anche questa era una traccia della colonna sonora del film Alta Fedeltà. E quale traccia era, Ottavia? Era Cold Blooded All Times di Smog. E mi ha evocato questo pezzo un ricordo. E diciamo c'era... che ti piace Smog. Mi piace Smog, sì, assolutamente, alias Bill Callahan. E tanti anni fa qua a San Lorenzo c'era un negozio di dischi straordinario che si chiamava Disfunzioni Musicali, e io ero lì con un caro amico, Alex Infascelli, che mi aveva chiesto dei soldi in prestito per comprare un album, e l'album in questione era Red Apples Fall di appunto Smog, Bill Callahan, che ha come prerogativa nelle sue canzoni l'avere un sapore di immortalità tipico dei classici come Nick Drake, Lou Reed, Leonard Cohen e Nick Cave. E i suoi pezzi si sviluppano intorno a un canovaccio musicale sobrio e originale, e per certi versi Smog è proprio il Drake degli anni 90, soprattutto per la capacità di trasferire sul pentagramma un disagio esistenziale emozionante, sobrio e misurato. E niente, questo era il mio ricordo per quanto riguarda questo pezzo, che penso che non sia interessato a nessuno, però a me mi mette molta serenità, insomma, ricordarlo. Erano dei bei tempi, no? Eh sì. Oh, rispetto al film, mi piaceva anche dire che si svolge, l'ambientazione è a Chicago, con tre dei locali storici della città, e il negozio in questione di cui è proprietario il protagonista è ricreato alla maniera classica dei negozi con gli LP e 33 e 45 giri, che non è stato facile assemblare perché insomma il film è abbastanza recente e i dischi, a parte ora una nicchia che li sta riscoprendo, dischi in vinile, il vinile, esatto, non era così facile rimettere in piedi un negozio con i vinili. Hanno usato anche qualche trucchetto, mi sa, hanno fatto qualche stampa esatto, per non dover trovare proprio tutti i dischi. Dovete sapere che la creazione di una grande compilation è una sofisticata forma d'arte che segue regole precise. Prima di tutto usi la poesia di un altro per esprimere quello che senti, ed è una faccenda delicata. Dovete sapere che la creazione di una grande compilation, così come una separazione, richiede più fatica di quanto sembri. Devi iniziare alla grande, devi catturare l'attenzione. Allo stesso livello metti il secondo brano, poi devi risparmiare cartucce inserendo pezzi di minore intensità, e sono tante le regole. Comunque, ho iniziato a pensare a una cassetta per Laura. Conosco i suoi gusti e cercherò di farla felice. E questa era Always See Your Face del gruppo che si chiama Love. I Love sono stati un gruppo rock statunitense formatosi nel 65 a Los Angeles, California, sulla scia del fenomeno musicale del momento, ovvero il rock psichedelico. Sono stati ricordati come una delle più importanti formazioni della scena californiana degli anni 60 e rappresentano forse i precursori dell'acid rock. Il loro leader, Arthur Lee, fu uno dei più abili ed originali chitarristi dell'epoca. Di Marvin Gaye, cantata da Jack Black. Che voce soul! Jack Black, oltre ad avere una carriera cinematografica piuttosto estesa, parte dal 1992, arriva fino ai nostri giorni chiaramente, si è dedicato in più occasioni alla musica, oltre a dimostrare di avere una grande voce, per esempio Tenacious D e Il Destino del Rock o School of Rock. Questo ci porta casualmente al nostro ospite della settimana, che è Federico Pontigia, dovrebbe essere in linea. Fede? Ciao, ci sono. Pensavo che dicesse "ha una grande pancia" di Jack Black, però ho capito che sei super professionale. Ciao. Ciao, e ho dedicato a Jack Black anche la copertina della trasmissione di questa settimana. Nel film lui si lascia andare anche a dei notevoli pezzettini che fanno lo spessore di un film che poi, riparlandone casualmente all'inizio della trasmissione, abbiamo detto: ma noi non eravamo convinti di Alta Fedeltà, però eccolo qui, insomma. a volte ritornano. Però ti posso dire una cosa, che anch'io non ero convinto di Alta Fedeltà, quindi vedi, non sei l'unico, sei in buona compagnia. Di Jack Black, che dire, hai già detto tutto te. È vero che uno che della contaminazione tra virgolette tra cinema e musica ha fatto un pezzo forte, diciamola così, della sua carriera. Qua, a dir la verità, però, prima di lui, parlando di Alta Fedeltà o High Fidelity in inglese ovviamente, ci sono ben altri tre personaggi, ovvero Stephen Frears, sì, regista, ricordiamolo, un film del 2000, ancor prima di lui però Nick Hornby, da cui è tratta, di cui Frears appunto trasposto il romanzo di estremo successo, e poi un John Cusack giovanissimo all'epoca e secondo me davvero bravissimo. Per chi possiede un computer basta che vada sulla scheda del film su Wikipedia edizione inglese per ritrovare scritto ciò che disse lo stesso Hornby di Cusack, ovvero: a volte mi sembra che sia un film in cui John Cusack legge il mio libro. Voleva essere appunto un apprezzamento, ma davvero, se vogliamo trovare, a mio avviso, uno se non il punto di forza fondamentale dell'operazione, della trasposizione, è appunto la grande fedeltà rispetto al testo di partenza. Ecco, rispetto... Non una fedeltà bigotta, però, sì. Perché cioè, di cose ne sono cambiate. Pensiamo solo all'ambientazione spostata da Londra a Chicago, dal sì. Nome del personaggio del protagonista, ovvero che è Rob Gordon, mentre nel libro era Rob Fleming. Insomma, ci sono anche, come dire, le scappatelle dalla pura fedeltà, quella più bigotta, al materiale di partenza, ma forse proprio queste scappatelle danno la misura della libertà con cui un libro può essere portato al cinema. Quando c'è libertà, quando la traduzione non è asfittica, non è filologica fino a essere pedante, ecco, forse troviamo le cose migliori. Senti Fede, non so se fa parte della tua biblioteca questo libro di Hornby. Sì, io non sono un grandissimo appassionato di Hornby, cioè li preferisco almeno dei suoi contemporanei britannici, almeno una decina di colleghi, però fa parte della mia libreria, questo sì. Mm-hmm. Senti, è sulla colonna sonora nel complesso? Credo che fosse scontatissimo a un certo punto, no? Dopo qualche anno dall'uscita in libreria, quindi credo che anche per quel motivo qua lo si sia presi un po', sì, sì. Un po' tutti. Scherzi a parte, ricordiamo, scusa perché dopo se no me lo dimentico, che comunque ha avuto un successo sia il libro che il film con cui è stato appunto adattato, hanno avuto un grande successo anche di pubblico, con la critica che viceversa è stata un po' altalenante. Però se dovessimo riassumere in un numero il giudizio critico, io credo che un 6.5-7 sia ampiamente, come dire, consolidato. Mm-hmm. Ti stavo chiedendo della colonna sonora nel complesso, perché i nomi tirati in ballo sono tutti piuttosto altisonanti, quindi era anche un po' gioco facile. Come dire, sì, scegliere questa colonna sonora vuol dire vincere facile, perché, come dire, sembra una Hall of Fame. Pensiamo alla, allora, innanzitutto c'è stato un problema di parsimonia per quanto riguarda il soundtrack, quello che è uscito appunto nei negozi di musica, che mette insieme unicamente, se non vado errato, 15 pezzi, no? Si parte con You're Gonna Miss Me e si finisce con I Believe, When I Fall in Love, It Will Be Forever di Stevie Wonder. In realtà però nel film le canzoni appena accennate, troncate dopo poche note, come dire, evocate, sono molto di più. Si arriva, se non vado errato, a una settantina. Sì. Pensare già però che anche nelle 15, come dire, nelle 15 selezionate per la soundtrack, l'original soundtrack, troviamo mostri sacri come Bob Dylan, Elvis Costello, se non bastasse, The Kinks, The Velvet Underground, addirittura con due pezzi, Stereolab, forse proprio gli Stereolab sono, come dire, uno delle chiavi d'accesso più generali, no? alla musica del film. E viceversa, nella settantina di musiche, di canzoni più o meno evocate, più o meno rimaneggiate, troviamo Belle Sebastian, Elton John, Aretha Franklin, Goldie, Bruce Springsteen, insomma il meglio su piazza. Adesso non ho dati certissimi, però diciamo che del budget stimato in 30 milioni di dollari, ecco, diciamo che la parte che la musica ha riservato per sé, ovvero i milioni di dollari che si è pappata, ecco, non devono essere pochi, assolutamente. Ovviamente c'era da aspettarselo, perché ricordiamoli, Rob Gordon del film John Cusack, ovvero il Rob Fleming del libro, è un autoconfesso amante della musica, e contemporaneamente a questa grande, come dire, a questa grande conoscenza, una conoscenza enciclopedica della musica, viceversa fa riscontro una non comprensione dell'universo femminile, no? Quindi se sulle donne, come dire, è un po' il racconto delle... È un disastro. Sì, senti Federico, invece volevo proprio parlare di questo piccolo cameo che fa Bruce Springsteen nel film, no? Sì. Ciao, innanzitutto. Sono ciao. Ottavia. E in cui proprio è il guru dei sogni del protagonista, insomma, no? Invece sì. Ho letto che nelle sue intenzioni doveva essere Bob Dylan. Ne sai qualcosa? Nelle sue intenzioni. Mi sa che abbiamo letto la stessa cosa, però sì. Voglio dire che non gli è andata male, no? Anche no. Bruce Springsteen ci può stare, anche perché, come si diceva prima, no? In tutte questi pezzettini di musica inseriti ci troviamo anche Bruce Springsteen. È vero, a confortare, come dire, il fatto che la prima scelta fosse Bob Dylan, che non a caso nella colonna sonora, in questi 15 pezzi di cui parliamo, c'è appunto Bob Dylan, viceversa manca con Most of the Time, viceversa manca Bruce Springsteen, che poi però ritroviamo sia sia in carne e ossa in questo cameo, sia con il pezzo appena accennato, The River. Dici bene, tra l'altro, perché oltre a questo Jack Black, John Cusack, troviamo John e anche Joan Cusack, troviamo anche in cameo, anche lui, un cameo d'eccellenza, Tim Robbins. Il capellone. Anche dal punto di vista delle star non sono stati troppo a lesinare. Sì. Senti Federico, più complessivamente, sì, rispetto alla sua filmografia, Stephen Frears, ecco, Alta Fedeltà come si inserisce, per come la vedi? Rispetto alla filmografia di Frears, secondo me questo film c'entra abbastanza poco. Con questo non voglio dire appunto che sia un film che non, se non gli faccia onore, anzi viceversa gli fa onore, ma in quale senso? Se consideriamo, e secondo me lo possiamo considerare, se è un autore anche nel senso tradizionale del termine, ovvero il detentore di una poetica e di uno stile, ebbene, con Alta Fedeltà, nonostante il titolo, va un po' fuori traccia, usiamo questa metafora un po' da cacciatore e un po' musicale, perché è un progetto, come però, attenzione, gli capita spesso, questo su commissione. Ha davanti un grande romanzo da adattare e lo fa portando un surplus. Qual è il surplus? Il surplus suo, oltre a, come dire, una grande consapevolezza del ritmo, e su un film musicale è già tutto, sì. Lo si vede nella grandissima, a mio avviso, direzione di attori. Sono tutti bravi. John Cusack raramente è stato, forse ugualmente bravo, ok, ma raramente è stato più accattivante, più interessante. Jack Black fa il suo, anche secondo me questo, anche nel suo caso, scusate, questo è uno delle sue partecipazioni migliori, quando non è, ma raramente lo è stato, protagonista. E poi questo film, come dire, se si discosta dal versante più autoriale di Fritz, non di meno segnala una dote particolare, la sua, che è quella che abbiamo riscontrato anche oramai due anni fa in Filomena. Sì. Anche Filomena era un progetto su commissione, cioè era già tutto pronto, poi è stato preso Frears per dirigere il film, con risultati sorprendenti. Ricordiamo la sceneggiatura di Alta Fedeltà, il soggetto ovviamente era di Nick Hornby. Frears non c'era, e se non vado errato, ma lo dovrei controllare, anzi lo posso fare in diretta, credo che anche nel progetto di Filomena Frears, no, infatti anche qua la sceneggiatura era di Steve Coogan nel film Martin Sixsmith, ovvero interpreta Martin Sixsmith, e da un libro omonimo, Filomena, di Martin Sixsmith, il film è appunto tratto. Anche in questo caso, nel caso di Come in Filomena, troviamo viceversa un attore, addirittura il protagonista, a scrivere la sceneggiatura, perché a scrivere la sceneggiatura di Alta Fedeltà John Cusack c'era. C'ha messo, quindi non il regista ma l'attore protagonista. Anche questa ricorrenza in entrambi questi due film dice molto del progetto di committenza, ma anche nel senso buono, cioè Fritz è un grande artigiano, un grande professionista, gli dà il copione e lui te lo traduce al meglio in audio e video, e appunto, dicevamo, direzione d'attore. Che diciamo è anche una caratteristica distintiva di molti registi americani, insomma, che non sono bravissimi. Che spesso bravissima. Non sono americani, autori delle sì, loro sceneggiature, bravissima. Ma che... Allora, americani e anglosassoni, viceversa in Italia, per arrivare a note meno liete, no, assolutamente no, me la devo scrivere pure io, perché sennò non sono un autore e via dicendo. Siamo ancora ancorati a una concezione letteraria, ma nel senso più bieco del termine, del cinema, no? Che uno deve non sapere, ma volere e potere fare tutto, con i risultati che tutti ahimè conosciamo. Per esempio, senza alcuna ironia, io considero Silvio Muccino non all'altezza di Gabriele, del fratello, anche se non vogliono più essere associati. Gabriele Muccino è un grande regista, non è sì, per sicuramente l'autore. Un bravo tecnico. Ma e quindi sì, insomma, ecco, il mio amico, io prima ho parlato del regista dicendo Arthur Frears, perché sai, noi siamo intimi e quindi io lo chiamo Arthur e non lo chiamo Steven. Vabbè, insomma, questa è una piccola precisazione, ma insomma, lo promuovi questo regista, o insomma lo bocci sì, questa sua? Assolutamente. Sì, sì, no, io lo promuovo proprio perché è così duttile da poter, come dire, avere una carriera, a mio avviso, non schizofrenica, ma che comunque ha due, come dire, due versanti, due binari, no? E poi le convergenze parallele fanno Stephen Frears. Da una parte c'è, come dire, una tensione sicuramente per il partire da un'opera letteraria, no? Pensiamo a un altro suo capolavoro, adesso abbandoniamo un attimo Alta Fedeltà, pensiamo per esempio alle Relazioni Pericolose. Infatti anch'io ci pensavo. Ok, pensiamo anche al romanzo di Colette, Chéri, 2009, per arrivare ancora più vicino. Pensiamo a Due sulla strada. Ha la capacità comunque di far sì che la derivazione letteraria non pesi sullo schermo. Questo ne fa un grande regista nel senso proprio, cioè uno che col cinema sa adattare, sa sistemare le cose per far sì che il film non puzzi di carta, no? Non si senta l'eredità letteraria. Contemporaneamente poi invece ha in qualche caso, non sempre, la capacità di confezionare piccole chicche affidandosi a grandi sceneggiatori senza quindi un materiale di partenza letterario. Penso per esempio a The Queen, impreziosito anche lì da Helen Mirren, ma sceneggiato da Peter Morgan. In questo caso non c'era un'eredità letteraria, però ha fatto una grandissima cosa. Per me il film di The Queen è sì il film di Frears e di Peter Morgan, per carità, hanno, come dire, il merito se lo spartiscono in due, però è un film che rientra nello Stephen Frears, più autoriale, tra virgolette, meno regista su commissione. Senti Fede, in chiusura hai anche dei titoli da suggerirci per Tracce di Cinema? Guarda, io ne ho solo uno di titolo da suggerirvi per Tracce di Cinema, ma mi piacerebbe davvero che lo faceste senza di me, anche se io ne sono un grande esperto. Mi piacerebbe che faceste, riservaste lo stesso bel trattamento con uno che ne sa più di me ovviamente, ma con Il cattivo tenente di Abel Ferrara, che scende la mia vita e ha dei pezzi sontuosi, e ognuno di questi pezzi qua, da quello finale, adesso non posso fare spoiler, però a ognuno di questi pezzi ha una bellissima storia alle spalle, quindi anche se sulla carta non è un film così accattivante, così esplicito, no? Così esplicitamente devoto alla musica come Alta Fedeltà, anche The Bell Lieutenant, ovviamente quella di Abel Ferrara, non la brutta estinta copia di Werner Herzog, ha moltissimo da offrire da un punto di vista della musica e anche da un punto di vista davvero del sesso che nei migliori casi cinema e musica riescono a fare insieme. E su questa bella immagine del cattivo tenente io ti saluto, Fede, ti ringrazio, un abbraccio. Grazie, e alla prossima. Grazie, ciao, alla Fede, prossima. Ciao, ciao, ciao, ciao. La lune est libre, je crois, qui rayonne au-dessus. Rayonne au-dessus des toits. La lune est libre. Y'a plus de qu'on ne le croit. Elle fluctue de ça et là. Les parties qu'on ne voit pas. C'est pas grave, ça reviendra. Et quand elle est plongée dans la froide obscurité, donne l'impression. E questa era Lo Boob Oscillator degli Stereolab. Un singolo per Sub Pop Records che ha subito varie trasformazioni. La versione originale è stata inserita nel disco Refried Ectoplasma del 1995. E qui compare una voce molto bella, secondo me gelida, quella di della vocalist Letizia Sadier o Sadier, che mette in risalto il mix di influenze che gli Stereolab hanno. Infatti sono una band molto avanguardistica e sperimentale che unisce tante sonorità, dal jazz al lounge, alla musica brasiliana, all'elettronica e al rock, che diciamo è stata influente nel periodo che va dagli anni 90 al 2000. Poi, in seguito a una serie di vicissitudini, la band si è fermata e infatti ha smesso, insomma, di si sono imposti di fermare la loro produzione nel 2009. E hanno appunto dichiarato che avevano ritenuto che il loro lavoro fosse stato fatto per il momento e che non ci sarebbe stato più nessun tipo di prodotto da parte di Stereolab. Immaginare una cosa, le fantasie per definizione sono irreali, quasi mai portano vere sorprese e quasi mai soddisfano, giusto, e mi hanno stancato. Quasi tutto mi sono stancato. Who loves the sun? Who cares that it makes plants grow? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the wind? Who cares that it makes breezes? Who cares what it does? You broke my E questa era Who Loves the Sun di un gruppetto, come si chiama? Velvet Underground. E chi sono i Velvet Underground? Quasi la totalità dei critici musicali, ma anche i più attenti ascoltatori di musica, concordano su una cosa, cioè che è stata una delle band più influenti nella musica del rock. è uno status conquistato da con una manciata di canzoni in tutto, un paio di dischi che hanno pure venduto poco, che però sono grandiosi. E infatti arcinota la frase di Brian Eno, il quale disse che soltanto un centinaio di persone comprarono il primo disco dei Velvet Underground, ma tutti quelli che l'hanno fatto sono diventati musicisti rock o critici musicali. La traduzione di Velvet Underground è Sotterranei di velluto, una traduzione fin troppo libera. Prende il nome da una rivista pornografica. La band, il cantante è ovviamente Lou Reed, è ambientata a New York e inizia verso la metà degli anni 60. Le performance del gruppo sono leggendarie, ma sempre limitate a un ambiente underground, e Andy Warhol stesso a togliere la banda dai bassi fondi ed inserirla nei suoi ambienti. Gli show di, in particolar modo Exploding Plastic, che era uno show di Warhol, organizzati da Andy Warhol, dove c'era uno show multimediale con musica, poesia, pittura, ballo. Ed è sarà sempre Andy Warhol a introdurre nel gruppo, per il primo leggendario album, l'attrice, modella e cantante Nico. Vabbè, io voglio dire soltanto che i testi di Lou Reed erano assolutamente controcorrente rispetto a tutto quello che di solito si scriveva nella musica rock di allora, ma ormai tanti tabù erano stati sfatati e stava, insomma, la sua musicalità stava nell'estremismo sperimentale che appunto avevano i Velvet Underground, con un nome e un cognome, John Cale, che venne addirittura allontanato dalla band ad opera di Reed, e questo forse fu anche la causa, insomma, di uno scioglimento, di una fine dei Velvet Underground. Volevo far sentire vari pezzi ancora di questa colonna sonora, però non lo so, io per esempio pensavo a Shipbuilding di Elvis Costello e a un piccolo brano che non trovo più, però vabbè, sarebbe Shipbuilding stato bello. Insomma, secondo me è un bel pezzo, potremmo chiudere con questo? Non so, siete d'accordo? Sì, però ricordiamo qualche cosa, nel senso, abbiamo ora il nuovo indirizzo di posta elettronica che è proprio dedicato alla trasmissione, cioè tracce di cinema@ondarossa.info. C'è anche sul sito internet della radio ondarossa.info una pagina dedicata a Tracce di Cinema. La trasmissione, ve lo ricordiamo, si occupa di colonne sonore nei film, va in onda il giovedì dalle 15 alle 16. C'è anche la pagina Facebook, i riferimenti li abbiamo dati, e salutiamoci. Ciao a tutti, alla prossima puntata. Ciao a tutti. On the boy's birthday, it's just a rumor that was spread around town by the women and children. Soon we'll be shipbuilding. Well, I ask you, the boy said, Dad, they're going to take me. But I'll be back by Christmas. It's just a rumor that was spread around town. Somebody said Could be diving for pearls.